Italia in controluce. La seconda edizione odierna di Italia in controluce, il viaggio di Radio 24 nella cronaca italiana, i casi di nera e giudiziaria, le curiosità, il costume, gli spettacoli. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchessi. La prima traccia è stata girata tra le province di Napoli e Caserta, quella che viene definita la terra dei fuochi. Il racconto di Sabrina Pisu. Io vivo, ma non vivo nella mia terra, perché io dove mi giro vedo o spazzatura o fumo nero. Cioè, per me è diventata un'ossessione a livello fisico e a livello psicologico. Ho due bambini, non so cosa fargli mangiare, mi trema la voce perché mi viene da piangere. Cioè, solo il pensiero di come noi viviamo, veramente è una cosa assurda. Barbara Forte ha 36 anni e vive con i suoi figli nella provincia nord di Napoli. Io abito proprio nel centro perché sto tra Qualiano, Villaricca, Secondigliano, insomma se mi giro a destra c'è il fumo, se mi giro a sinistra c'è il fumo. Dormiamo di notte con le finestre chiuse, di giorno se puzza chiudiamo, se non puzza, cioè ormai anche i bambini si sono imparati a riconoscere l'odore nocivo dall'odore di una semplice brace. Giuliano, Villaricca, Qualiano, la terra dei fuochi comincia qui. Di storie come quelle di Barbara ce ne sono tante. Ai bordi delle strade, sotto i piloni autostradali, cumuli di rifiuti che presto diventeranno cenere, copertoni di automobili, pneumatici, computer, persino l'Eternit che contiene fibre d'amianto, dagli scarti ospedalieri a quelli industriali che con la combustione sprigionano sostanze tossiche che inquinano la terra, i frutti, l'aria e l'acqua. Barbara Forte vive in quest'area, nota anche come Triangolo della Morte. Mio padre è morto 2 anni fa con un tumore alla trachea. Da 8 anni soffro di tiroidite tossica. Mi hanno detto che anche questo è uno dei mali causati dagli effetti dell'inquinamento. Un nuovo studio del CNR dice che qui i tumori sono 30 volte oltre la media nazionale. I pericoli sono legati all'elevata percentuale di sostanze tossiche come la diossina sprigionata dai roghi. Una sostanza che svolge un ruolo non secondario nell'insorgere di varie patologie, dai disturbi endocrini fino al cancro, come spiega Antonio Marfella, tossicologo e oncologo dell'ospedale Pascale di Napoli. La correlazione c'è, dimostrata da tempo. Il problema è che la diossina è solo uno dei parametri, ancorché sono circa 200 sostanze. Quello che è accaduto nella terra dei fuochi è che da almeno 30 anni è sede di uno sversamento multiplo e di impianti sbagliati che vanno dal radioattivo a metalli pesanti. Quella che era chiamata Campania Felix per la prosperità e la fertilità del suolo appare oggi come un lembo di terra grigia e avvelenata, un territorio in espansione che da Napoli arriva fino a Caserta e conta 2 milioni di abitanti. In queste aree non bisognerebbe coltivare più, denuncia Amato Lamberti, ex presidente della provincia di Napoli e coordinatore dell'Osservatorio contro la Camorra. Numerose indagini dicono che ci sono aree inquinate non solo a livello di terreno ma anche a livello di falde acquifere. Io penso che la cosa più normale sia quello di dire non è possibile utilizzare quelle aree per coltivazioni di tipo alimentare. Forse un controllo del territorio più attento anche a questi fenomeni, non dico li eliminerebbe completamente, ma comunque li limiterebbe, li renderebbe più difficili. Intanto a controllare il territorio ci pensa un gruppo di giovani capeggiati da Angelo Ferrillo, che ha deciso di opporsi al disastro del territorio in cui vive e per questo ha dato vita ad un sito web di denuncia che si chiama proprio La Terra dei Fuochi. La Terra dei Fuochi nasce circa 3 anni fa ormai, nata da semplici cittadini che per un senso di esasperazione e di indignazione per quello che succedeva sul territorio, nonostante le numerose prove da anni, abbiamo deciso di adoperarci in modo tale da monitorare, documentare, archiviare quello che accadeva e veniva poi riversato su internet. All'inizio ho anche ricevuto minacce e intimidazioni, hanno cercato di farci smettere. La fortuna di questa idea che mi è venuta è stata quella di coinvolgere la cittadinanza. Le denunce, le segnalazioni arrivano ormai dai cittadini. Documenti che Angelo Ferrillo ha regolarmente consegnato alle autorità competenti affinché all'azione di denuncia dei cittadini faccia seguito quella della giustizia. Siamo arrivati addirittura in commissione bicamerale d'inchiesta sull'illecito dei rifiuti, presieduta dall'avvocato Gaetano Pecorella, che ci ascoltò nel luglio scorso nella prefettura di Salerno. Il nostro appello al Presidente della Repubblica risale al novembre del 2008. La Presidenza ci ha risposto che si stavano attivando le prefetture e che si stava facendo il possibile per fermare questo fenomeno, però da allora i fatti ci dimostrano tutt'altra cosa. Sindaci, Regione Campania, Province, Prefettura, Ministeri dell'Interno, Salute e Ambiente. Dopo il lavoro di denuncia fatto dal portale La Terra dei Fuochi, nessuno potrà più dire che non sapeva. Italia in controluce. Il secondo girato di Italia in controluce è ambientato nella scuola delle mamme. Cristina Carpinelli. 1, 2, 3. If you close the door. La mamma è andata a scuola, si è chiusa la porta alle spalle, ha indossato il velo, ha messo il quaderno nella borsa ed è andata. All'inizio non sapeva parlare, stava nel banco in fondo. Adesso la mamma ritira il diploma e sa dire tantissime cose in italiano. Ha capito che suo figlio impara in fretta e che se lei resta chiusa in casa non imparerà neppure un decimo di quello che gli altri della famiglia sanno. Giovanna a mezza testa è una delle presidi che hanno aderito al progetto La Scuola delle Mamme e ogni anno si porta a casa un successo silenzioso, ma del quale va molto fiera: diplomare donne straniere che solo mesi prima non sapevano dire neppure una parola in italiano. È un progetto che abbiamo all'interno già da 7 anni, secondo me è un ottimo processo di integrazione fra mamme. Loro amano chiamarsi mamme immigrate, non mamme straniere, perché le fa sentire probabilmente proprio più integrate. Fra di loro, quindi fra etnie diverse, ma anche fra loro e le italiane. Tra l'altro io credo che sia proprio nello spirito della fondatrice di questa scuola, Giuseppina Pizzigoni, ha voluto questa scuola sotto il ponte della Ghisolfa, come diceva lei, perché era un quartiere operaio e un quartiere contadino negli anni 10 di questo secolo. È tornata ad essere la scuola del quartiere. Il quartiere è un quartiere multietnico, è un quartiere anche di realtà problematiche ed è nello stesso tempo anche un quartiere residenziale, perché ormai anche quello. Quella che vi raccontiamo è una rivoluzione che interesserà anche voi, perché queste mamme, queste donne, porteranno maggiore serenità in casa, si approprieranno della lingua italiana e sapranno integrarsi e far integrare figli e mariti. E così ci saranno meno conflitti sociali dal basso. Vi sembra poco? Le scuole delle mamme stanno sbucando qui e là in tutta Italia. Partiamo da Milano, siamo andati alla scuola elementare Cadorna di Via Dolci. Carla Rolla è tra le ideatrici dell'iniziativa. In cui le mamme lasciano i loro bimbi piccoli, quelli che hanno a casa, cioè 0-3 anni. Questo da un lato permette alle mamme di frequentare la scuola, dall'altro permette un vero e proprio percorso di crescita per i bambini. E le mamme invece come hanno preso questa possibilità? L'adesione al progetto è sempre stata enorme e immediata, fin dall'inizio, nel senso che il primo anno noi abbiamo cominciato in questa scuola, in McMahon, abbiamo cominciato 6 anni fa, alla prima abbiamo soltanto appeso fuori dei cartelli con le date di iscrizione al corso e nel giro di 3 giorni ci sono arrivate 18 mamme che volevano iscriversi. Questo è stato 6 anni fa. Oggi ne abbiamo in questa scuola 100 iscritte, soltanto col passaparola, 100 in questa scuola, solo in questa scuola 100, in tutto nelle 3 scuole ne abbiamo circa 350 iscritte, di cui hanno frequentato con regolarità, perché hanno avuto il loro diploma di partecipazione, in 259. A Milano ci sono altre 5 scuole delle mamme con 270 iscritte, provenienti soprattutto da Egitto, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Cina e Giappone. 2 ore di lezione 2 volte la settimana per 4 anni, 130 volontarie che, oltre ad insegnare l'italiano, tengono i bimbi piccoli mentre le mamme sono in classe. Intanto altre volontarie fanno il percorso contrario con i figli nati qui e che devono recuperare il contatto con le loro tradizioni. Io mi chiamo Nancy Boktur, sono egiziana, sono qua in Italia da 10 anni e faccio l'insegnante di lingua araba e la mediatrice linguistica culturale. Occorrono questo laboratorio di L1 perché abbiamo pensato a fare questo laboratorio su richiesta di genitori, perché per loro era molto importante, per i loro figli, per i nostri figli, conservare la lingua madre, conoscere la propria cultura, la cultura d'origine, perché questo, pensiamo che questo facilita comunque il dialogo con i genitori, cioè i bambini che non sanno la cultura dei propri genitori, le tradizioni, le abitudini, le usanze, alcune volte entrano in conflitto con i genitori perché essendo nati qua sanno di più la cultura italiana e si sentono anche più italiani che arabi o cinesi. Quindi abbiamo pensato a fare questo laboratorio non solo per farli conoscere la cultura d'origine, ma rafforzare anche dentro di loro il loro senso di appartenenza, perché crescendo abbiamo notato che poi al momento, all'età di adolescenza, alcune volte provano una crisi di identità, non riescono a capirsi chi sono loro, perché non possono sentirsi italiani al 100%, non hanno il sangue italiano, neanche stranieri perché non sanno neanche com'è il loro paese, che cultura c'è nel mondo arabo, cinese o spagnolo, così. Allora abbiamo pensato a fare questo laboratorio, quest'anno avevamo 4 classi di L1 lingua araba, 2 classi lingua cinese, 1 classe di lingua spagnola. Io sinceramente devo dire che quest'anno è andato benissimo il laboratorio. Ho visto i genitori nella festa di Rinnovata, hanno dedicato un pezzo del programma della festa finale qua di Rinnovata al nostro laboratorio. Ho visto le mamme erano contentissime a vedere i loro figli cantare l'inno egiziano, l'inno marocchino, l'inno cinese, una poesia dedicata al mondo latino in generale. Ho visto veramente i loro occhi che sono riempiti di gioia e di lacrime. Un progetto identico è nato anche a Torino e Bologna. A Torino all'Istituto Comprensivo Pacinotti. A Bologna l'hanno chiamata Mamme a Scuola, ma alla fine il concetto è sempre lo stesso e l'iniziativa tutta italiana viene guardata con attenzione anche all'estero. Italia in Controluce termina qui. Sul nostro sito tutte le nostre puntate www.radio24.it, il gruppo di Facebook Radio 24 Italia in Controluce. A domani la mia voce 6:30 su Radio 24.